Pane, burro, rock and roll, sono le 8 spaccate. Buongiorno amicici nuovi, buongiorno amicice nuove. C'è una splendida giornata che vi aspetta là fuori. No, non badate a chi vi dice che sta piovendo. Fuori c'è il sole che sembra già mezzogiorno, guarda. Voi intanto tiratevi fuori dalle copertine, perché c'è Pane, burro, rock and roll che pensa a voi. Questa settimana vi sveglieremo in maniera molto hollywoodiana, anzi molto broadwaydiana. Entriamo tutti a far parte del musical Air, vi va? E per dare il buongiorno a una nuova giornata, il buon Spadino schiaccia play sul nostro lettore vinile per augurarvi una splendida giornata con Good Morning Starshine. Forza, giù dal letto, si balla tutti insieme, ok? Good morning, starshine. The earth says hello. Hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. Avremo 5 puntate per imparare a memoria questa canzone tratta da Air, Good Morning Starshine. Ci sembrava buono il consiglio di Roberto, che ce la consigliava via mail. Abbiamo 5 giorni per imparare a memoria testo e inventarci una coreografia, e ci sveglieremo tutta questa settimana pensando non di dover andare al lavoro, non di dover andare a scuola, non di dover andare dove state andando. Ci sveglieremo tutti quanti pensando che stiamo andando a Broadway a fare il provino di Air, che secondo me potrebbe essere così finzione per 2-3 minuti, che ci vuole, tanto per sognare un po', no? Dui wap duba dubi dabi du, e sarà tutto più bello. Il primo commento che arriva dopo questo: mi sento molto Mary Poppins. Esatto, esattamente lo spirito col quale volevamo affrontare la giornata. Permettetemi di ringraziare e salutare di nuovo Mox Cristadoro, valente conduttore della trasmissione denominata Easy Rider, ogni giorno in diretta da mezzogiorno alle 2, ex collega radiofonico, lusco personaggio col quale ho diviso parecchi anni di radiofonia qui sulle frequenze di Rock FM, che ci ha imprestato, e sottolineerei imprestato, un doppio vinile di Air in condizioni extra eccellenti, come solo Mox Cristadoro sa tenere un vinile. E quindi l'appello va a Spadino: stai attento che Mox taglia i diti, cioè se Mox ha le lozioni tipo quelle dei RIS, no? Che mette sui vinili per vedere se ci sono delle ditate. Dopodiché Mox Cristadoro ha tutte le impronte digitali di noi di Rock FM e degli avventori casuali. Se becca di chi è l'impronta digitale sul vinile, ce lo taglia con la forbice. Quindi Spadino, stai molto attento, perché in questi prossimi 5 giorni dovrai maneggiare tu quel coso vinilitico, perché io non lo tocco, altrimenti rischio l'amputamento di parte della mia mano, e ci tengo particolarmente. Si prosegue! Yeah! Energia targata Led Zeppelin, 8 e 5 minuti primi, e qua a Pane, Burro e Rock and Roll va tutto bene. Io sono squadra con voi e voi siete in squadra con noi. Spadino è in squadra con me, io sono in squadra con te, Spadino. E i Led Zeppelin lo sono? Certamente. Questa è Rock and Roll! Cartoline, ma quante ne sono arrivate, Freak? Io potrei coprirla da tante cartoline. Sono arrivate all'indirizzo di Rock FM e giorno per giorno tentiamo di dare un senso a questa cosa che non ne aveva granché di senso, o sì? Ma scherza, ma non ricorda gli inizi, gli albori? Lo ricordo. In difesa della cartolina postale, basta con gli SMS, basta con le comunicazioni via telematica, via computer. rilanciamo la cartolina postale. Quest'oggi andiamo ad affrontare la tematica immagini, perché per spedire una vera cartolina rock alcuni di voi hanno scelto delle immagini, come per esempio ha fatto Angelica con un disegno tutto suo. Questa è peraltro fatta a mano, bellissimo. Lo descriva subito. Beh, sì, e naturalmente è Rank Xerox di Frigidaire, è il personaggio forse più famoso della rivista Frigidaire, rivista degli anni 80, soprattutto anche 90. C'era questo fumetto che disegnò Andrea Pazienza agli inizi, poi il disegno passò a Tanino Liberatore. Ma chi afferma, lei sa tutto? Ma no, perché il fumetto mi appassiona e le devo dire che questo è un'ottima riproduzione di Rank Xerox, il coatto metallaro fatto dallo studente delinquente della seconda metà degli anni 70, che questo studelinquente che aveva, secondo appunto i canoni della reazione della polizia, vigilava sorvegliando gli studenti da vicino, questo studelinquente aveva realizzato questo super manichino teleguidato che si chiamava Rank Xerox. Ed è questo il disegno fatto a mano da Angelica, che ci scrive: la cartolina è amanuensa perché non ne ho trovate in giro, SIG. Ma complimenti! E ci scrive anche dalle colline di Firenze: surfisti dell'etere, che cavalcate ogni giorno la cresta della grande musica, naufragar me dolce in questo mare, un mare di rock. Mi piace, guarda, questa ragazza, mi piace. Baci a tutti in ordine sparso, grazie Angelica. Angelica, sei grande. E passiamo alla Polonia, from Poland, una cartolina che prevede un set di mucche. Carinissima, mucche sulla spiaggia, se vedo bene. Con della birra, con birra, vino e un banjo per suonarsela. E uno di loro si fa anche un barbecue. Esattamente. Mucche da Polonia che ci arrivano da Klaus, pane, burro, rock and roll, la tua colazione. Ciao ragazzi, qui la colazione era tutta un'altra storia. Il 3 settembre tornerò a farla con voi tutti i giorni. Al maestro Freak di Geriele, spadino e trombetta, alla mucca Camilla e a tutti quanti. Quanti punti merito? Domanda che avete scritto in molti. Tanti a tutti, perché siete stati tutti bravissimi. E anzi, chiudiamo. Braverrimi. Chiudiamo questa tripletta di cartoline con immagini con Adriano da Firenze. Ho conquistato la patente davvero rocker, adesso vorrei sottoporre un quesito al maestro Fricantoni. Addirittura un quesito personale. Nel film Callas Forever il brano di apertura è di una importante punk band anni 70. Si tratta di Ramon, Clash o Sex Pistol? Aia, questa è una domanda con trabocchetto, perché erano senz'altro, ma la so io, erano gli Schiantos. Buonanotte, e salutiamo e ringraziamo Adriano anche per l'immagine nella una bellissima punk, una ragazzina punk con tanto di cresta, una punk rocker giovane e avvenente con tanto di cresta biondissima. Viva le cartoline, viva le rockettare, giovani belle carine, ma anche tutte le altre ci piacciono sempre. Yeah. tanto agonismo, un impegno intenso, ma poi per essere tenero e delicato anche con te stesso, perché ti vuoi bene. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. It does. I listen to a favorite song, playing on the radio. Yeah, the DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like a knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I, he found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. All together now, just like it. Hey cowboy! Una ballad per cowboy questa, Every Rose Has Its Thorn. I Poison a interpretarvela nella diretta di quest'oggi di Pane, Burro e Rock and Roll. Ed è subito amore alle 8 e 20 minuti primi, qualche secondo alle 8 e 20 minuti primi. Questo vuol dire che ci stiamo avvicinando alla pausa verso le 8 e 30, dove non ci piove, cioè può succedere di tutto, ma lì c'è il momento del test attitudinale qui a Pane, Burro e Rock and Roll. L'unica cosa insieme alle sigle che proprio rimane lì. Ne approfitto per salutare Barabba, il buon Barabba che conta dalla Genova all'ascolto, che addirittura ci telefonava prima. Non li ricordo mai i contatti telefonici, ma volendo potete raggiungerci anche lì, 0267 09 132, quello è il numero di telefono. Dicevo, test attitudinale grazie al quale da 89 puntate a Pane, Burro, Rock and Roll regaliamo punti per la patente davvero rocker. Questa patente davvero rocker è entrata nell'immaginario collettivo dei nostri radioascoltatori, in molti non ci speravano, ma io posso dirvi che ho passato il weekend a supervisionare la costruzione della patente davvero rocker, che è arrivata a un prototipo zero, quindi esiste, è ufficiale, esiste un prototipo zero della patente davvero rocker. 1000 punti alla patente davvero rocker della buona e brava Ro, che ci ha aiutato, o meglio che ha fatto la patente davvero rocker. 1000 strombazzate per lei. Questo implica il fatto che a giorni dovremmo avere anche le prime copie. Perché vi ricordo questo? Perché vi segnalo che domenica 30 settembre, appuntatevelo lì sul cruscotto della vostra auto, lì dove c'è il cumulo di polvere, scrivete 3907 PBR, Pane, Burro, Rock and Roll, presenteremo ufficialmente, sono ormai quasi convinto in questa cosa, sono convinto che la patente davvero rocker esisterà il 30 di settembre, e per la prima volta faremo il test attitudinale collettivo, perché sia ben chiaro, non le regaliamo così a mazzi, la patente la regaliamo solo a chi dimostra di azzeccare le risposte. Quindi anche quest'oggi allenatevi con il test attitudinale, perché il 30 settembre qui a Milano, Cascinamon lo è, ci sarà anche un grande concerto degli Schiantos, quindi occasione veramente da non perdere per chi tutte le mattine si sveglia con Pane, Burro, Rock and Roll. Domenica 30 settembre, Cascinamon Lue, spargete la voce come sta facendo anche Klaus, me lo scrive via SMS, oh, guarda che sto raccattando un po' di gente per il 30, bravo, questo potrebbe aiutarti nel ricevere una patente davvero rocker. Per ben disporvi alla domanda di quest'oggi, uno dei brani più belli della storia del rock, interpretato dai Beatles, A Day in the Life. Buona giornata. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. I sono amici, ci sono amiche sparse là fuori che si svegliano nel pieno della notte a occhi sbarrati, si guardano allo specchio e se lo chiedono, Freak. Io lo so, sono un vero rocker oppure no? Se lo chiedono, perdono il sonno, tranquilli, dormiteci sopra e ascoltate Pane, Burro e Rock and Roll. Esatto, è solo continuando ad ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll che avrete l'esatta risposta. La risposta quale? Se sei o non sei un vero rocker? Sì. E come potrei dimostrarlo al mondo? Mi scusi per questo potrei un po' troppo... Ma è giusto, è giusto, è giusto. In questo caso il dubitativo è d'obbligo perché occorre confrontarsi. Occorre sapere. Cimentarsi, esatto. Studiare. Prepararsi. Vado con la domanda. Verificare. O temporeggiamo ancora. Ascoltare il test attitudinale e rispondere. Andiamo con la domanda di quest'oggi che riguarda il legame che spesso e volentieri molti artisti hanno con il nostro bel paese, con lo stivale, con l'Italia. Con l'Italia. Domanda patriottica. Per Bacco. Rapporto difficile in anni passati, eh? Ricordiamo che Santana rifiutò di suonare per tanti anni. Ma non andiamo paese. Così tanto indietro, perché quest'oggi parliamo di Edward Louis Severson III. Sa chi è? Non saprei al momento. No, perché così effettivamente non lo conosce nessuno. In realtà si fa chiamare Eddie Vedder, cantante dei Pearl Jam. Ci sapreste dire là fuori cosa lega Eddie Vedder all'Italia? Tre soluzioni possibili. Come al solito, per aiutarvi abbiamo ristretto il campo a tre ipotesi. Ipotesi numero uno: ha aperto nel 1992 una catena di spaghetterie, 15 per l'esattezza, in America, negli Stati Uniti, spaghetterie che si chiamano spaghettatissimi. Complimenti a Eddie Vedder, questa era la soluzione numero uno. Ipotesi seconda: Eddie Vedder si sposa con la storica fidanzata Beth Liebling in Campidoglio a Roma. Oh, auguri alla coppia, sarà questa forse quella giusta? Ma chissà. Terza ed ultima ipotesi: Eddie Vedder ha tatuato il Colosseo sul polpaccio destro. Complimenti per la scelta, sarà questa forse quella esatta? Chi lo sa, chi lo sa. Scoprillo, scoprimolo. Se le cose non le sai, salle. Sì. Se davvero non le salli ancora, sì, aspetta le soluzioni, che come al solito verranno date tra poco, le risposte a dopo. E beh, che c'è?